restare solo un poco per provare, se vorrai ritrovare ogni momento per riposare. Poi sarò pronto di nuovo a partire nel mio viaggio, a ricominciare, a fare in volto, a ritrovare nuove certezze, dubbi affrontare. Nuovi mondi da imparare, se la cosa vuole fare, emozioni da sperimentare, da sperimentare. Uomo comune, uomo comune, uomo comune. Poi incontrare un vecchio per strada, per parlare, conta una storia da non scordare, spiega il percorso che devo cercare. Il tempo corre, si può fermare, che si vincibile, ma può cadere, essere un uomo comune, non è facile come può sembrare.